3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo. Dalla vostra ormai nota apprendista, strega e stregoncella che, come ogni settimana, vi porterà in un mondo che va un po' al di fuori della scienza e della medicina tradizionale, anche se poi di scienza e di medicina se ne parla sempre. E sono qui tutte le settimane a cercare di coinvolgere il povero Giorgio, il nostro incredulo, e tutto il pubblico di Radio Bicord. Giorgio, buongiorno. Elisa, Elisa, ma come faccio a non essere incredulo? Ma dai, siamo bombardati letteralmente. E YouTube, e Netflix, e il telefonino, e il meme, e Facebook, e poi ancora la televisione, la radio, i giornali, tempestati di notizie che, in buona sostanza, per la quantità sono ingestibili e per la qualità sono inverificabili. E pertanto se ne sente di tutte, da quelle vere a quelle false, e qui lasciamo scegliere a chi ci ascolta, e i professori dell'università famosa in tutto il mondo, preferibilmente americana, che annunciano che coi loro esperimenti riusciranno ad allungarci la vita, a diminuirci la vecchiaia, a renderci amortali, che non è immortali, insomma, a livello cellulare amortali, poi se uno fa un incidente sono affari suoi. Ma dall'altra parte sorgono anche tutta una serie di guru, di maestri spirituali, di dottori di medicina che non si erano mai sentiti, e anche loro telepredicano da tutte le parti, o digitalmente predicano che nuove cure sono possibili, che tutto dipende dalla mente, che tutto dipende dal pensiero. Ora, tra di loro ci saranno anche quelli che sono ispirati dal divino, ma molti probabilmente sono o improvvisati o ciarlatani, tanto che a volte le loro storie finiscono sul giornale, ma anche al cimitero. Dall'altra parte, come si fa a non dimenticare, per esempio, la cricca dell'allora Ministero della Sanità? Erano tutti professori, dottori e dottoroni, e prendevano soldi per mantenere sul mercato farmaci che erano in buona sostanza letali, e invece evitare che ricevessero l'autorizzazione a essere prescritti farmaci che erano forse meno letali e più efficaci. E la storia continua ancora oggi, laddove tante terapie o tante sostanze che sono state riconosciute come effettivamente efficaci in ambito della salute siano illegali e spesso perseguite e perseguitate dalla legge. E allora è per questo, e lo sai, che a te ci rivolgiamo. A te ci rivolgiamo perché sei scientifica, ma anche perché sei un po' sciamanica. Insomma, per noi increduli, che cosa ci racconterai oggi? Oggi voglio parlare di una cosa che tutti noi trascuriamo troppo spesso, che è il sonno. Il sonno e relativi sogni. Ma va, ma anche tu come Jung c'hai il mandala, si sogna di notte, insomma il sonno. Elisa, ho letto da qualche parte, neanche mi ricordo dove, che in buona sostanza il sonno anche per la scienza è un mistero. Perché dormiamo? Ci confermi o ci smentisci questo tipo di informazione, sempre ingestibile nella grande quantità che ne arrivano? Il sonno in realtà ha una sua valenza scientifica, nel senso che serve uno per riposare il corpo da fatiche. Ora, teniamo presente che noi non siamo più in un'epoca in cui fatichiamo veramente tanto, tranne poi le poche persone che lavorano veramente col fisico tanto, ma fatichiamo tanto con la testa, quindi il nostro cervello ha bisogno di 8 ore di riposo, ma questo riposo non serve solo a spengere il cervello come si pensa, ma a lui serve per elaborare anche tutto quello che ci è successo e che dovremo affrontare nelle prossime giornate. Ma questo assomiglia più all'ansia, sai, quel quando ci si mette a letto e siamo lì e che si pensa, domani farò questo e domani l'altro e poi, ma se non ho fatto... Insomma, questo tipo di pensiero che poi ci portiamo a letto e ci dormiamo su, che tipo di influenza ha sulla nostra vita e sul sonno? Appunto, è proprio quello a cui serve il sonno, dormirci sopra, perché esiste, no, nella fase REM, il momento in cui il nostro cervello sogna di più, e durante questo sogno lui cerca di elaborare cose che o noi abbiamo vissuto e che, diciamo, non abbiamo risolto, situazioni per cui ci siamo rimasti male, o situazioni che dobbiamo risolvere ma che il nostro cervello attivo e conscio non sa come risolvere. Anche se noi spesso non ci rendiamo conto, non sappiamo cosa abbiamo sognato o non ricordiamo perfettamente il sonno, il nostro cervello ha bisogno di quel tempo in cui noi siamo praticamente off, diciamo, a livello fisico, off al 90% del cervello, per cercare di andare avanti, di evolvere e di risolvere i problemi. Quindi nel sonno si elaborano dati. I dati che si sono raccolti il giorno precedente vengono rielaborati durante la notte per poi la mattina tornare fuori con nuove soluzioni, nuovi modi di vedere le cose. Esatto, e il problema più grande nasce dal fatto che noi non dormiamo bene o non dormiamo correttamente, per cui questo tipo di fase e di risoluzione spesso non avviene. Ma va! Quindi dici che a causa della cattiva qualità del sonno si rischia di rielaborare i dati solo in modo parziale o addirittura inefficace, tanto che il giorno dopo poi è peggio del giorno prima. Esatto, perché oltre alle 8 ore di sonno che tutti i medici raccomandano di dormire dalle 7 alle 9 ore, eccetera, eccetera, il tipo di riposo deve essere anche conscio a far sì che il cervello non elabori, quindi sarebbe bene non addormentarsi con la televisione accesa o comunque nell'ultima parte della serata non stare lì su Facebook, chat, eccetera, eccetera, a spippolare, perché il cervello poi si ricorda le ultime cose che ha fatto, quindi è stato sui social, magari ha letto la cavolata di quello, la cavolata di quell'altro, cioè poi ci si incavola per le minime cose scritte su questi social network, quando in realtà lasciano abbastanza il tempo che trovano. E quindi che fa? Se riesce a riposare quel poco che riesce a riposare, elabora cose futili, che a noi poi non servono per migliorarci la vita. Inoltre un'altra grossa nemica è la sveglia. Perché pare che noi riusciamo di più a sognare nella maniera corretta, quindi nella fase REM in cui noi elaboriamo queste cose, la mattina presto. Quindi mettere la sveglia e alzarci di botto rischia di interrompere questo processo, quindi molti studi dicono che sarebbe meglio mettere una sveglia una mezz'oretta prima di alzarsi e dormire un'altra mezz'ora mettendo, che ne so, una sveglia 35 minuti dopo, per far sì che magari i nostri occhi si richiude, ci si riaddormenta e si riesce a concludere questa parte del sogno che è importante per noi. Pensate, quando non c'erano orologi e sveglie, quindi fino alla metà dell'Ottocento, i nostri antenati si alzavano col sole e andavano a letto con la luna. Pertanto era molto naturale la loro fase di sonno e veglia, però c'era un problema, è che dormivano pochissimo perché i letti erano pieni di pulci, li pizzicavano, si svegliavano i pidocchi. Noi oggi che questo problema non lo abbiamo, però abbiamo le sveglie, è una tragedia. In effetti i più bei sogni che mi ricordo si sono fatti la mattina e quando sono alla sveglia la malediciamo. Ma per esempio un terapeuta di coppia che conoscevo, lui diceva e consigliava dopo un litigio mai andare a dormire arrabbiati, perché poi il giorno dopo ripartiamo con questa arrabbiatura. Ma il mondo odierno che viviamo, e cioè andiamo a letto più tardi e poi capita di fare la nottata e poi per una ragione o per un'altra, magari per l'ansia del giorno dopo, dormiamo pochissimo. Questo come influisce non solo sulla nostra salute, ma sulla qualità della vita, sulla qualità dei giorni dopo? Influisce nel fatto che una mancanza, diciamo, di questo tipo di sonno alla lunga crea proprio uno scompenso fisiologico e mentale, quindi siamo sempre più stanchi, non arriviamo alla risoluzione delle questioni che ci siamo lasciati in sospeso, poi magari se ne accumulano, l'ansia aumenta sempre di più. È un cane che si morde la coda. So che sono magari per alcune cose abbastanza banali, no? Ce lo dicono tutti che dormire è importante. Dormire è importante, ma bisogna anche dormire nella maniera corretta, quindi certo è chiaro che ci si diverte a fare la serata, ci si diverte a uscire, ora soprattutto con l'estate, con le belle giornate, a stare fuori di più, però non trascuriamo questa parte, perché a lungo andare si deteriora tutto, a partire dal cervello e poi ne consegue il fisico. Se abbiamo problemi a dormire tutto quanto, ci sono tante di quelle soluzioni che possiamo nel nostro piccolo attuare per cercare di riposare un pochino meglio. Parlando di soluzioni, mia nonna per dormire prendeva delle pasticche da cavallo, praticamente non so che roba ci fosse dentro, oppio senz'altro, e faceva 12 ore filate a letto. La questione è: quel tipo di sonno lì indotto ha la stessa qualità del mettersi a letto, addormentarsi e svegliarsi quando il sole è già alto? Ci sta, ed è molto probabile, alcune ricerche scientifiche lo dicono, che questi tipo di pasticche non inducano la fase REM. Quindi sei solo nella fase più profonda del sonno, che è quella dove la maggior parte del tempo noi la passiamo, ma non fanno sì che quindi determinate cose vengano elaborate, quindi ti manca proprio quella parte lì. E è per questo che li prescrivono. Allora, Elisa, esistono delle alternative? Per mille motivi, probabilmente non si dorme per ansia, per paura, per stress, e sarebbe preferibile andare a lavorare su queste aree. Ma mentre ci si sta lavorando, oppure mentre ancora sarebbe preferibile prendere coscienza di questo tipo di problemi, ma non lo si fa, però si cerca un rimedio che non sia dannoso e che permetta di dormire bene, di rimedi in questo senso ce ne sono? I più banali sono cercare di almeno mezz'ora, un'oretta prima di andare a letto e spengere tutti i dispositivi elettronici, quindi televisione, cellulare, computer, qualsiasi cosa uno voglia fare. Poi la nostra magnifica lampada al sale, che se lavora durante il giorno può comunque togliere tanti ioni cattivi e quindi rendere l'ambiente dove si dorme un pochino più salutare. E per quanto riguarda invece i fiori, ci sono il banalissimo stress top che uno può prendere prima di andare a letto, e anche in versione ciondolino, si chiama Serenity, che uno si mette la sera prima di andare a letto e, portandolo al collo, diciamo, ha la funzione di tranquillizzare sia il corpo che la mente. E provare a mettere la sveglia un pochino prima e poi restare un'altra mezz'oretta a letto e vedere se quella mezz'oretta a letto uno si riaddormenta, riesce, diciamo, a fare un sogno proficuo per la nostra giornata. Anche un buonissimo fiore, da mix di fiori da prendere nel caso uno passi tante ore al computer, alla televisione o altri dispositivi prima di andare a letto, è l'elettro, che fa sì di ripulire proprio il nostro corpo e la nostra testa da tutti i campi elettromagnetici negativi che fanno sì che il cervello ancora lavori. per darci una misura così a cazzotto, un buon sonno portato avanti, per esempio seguendo i tuoi suggerimenti ogni giorno, in percentuale quanto la migliora la qualità della vita? 10, 20, 30%? Questo è un po' soggettivo, nel senso che prima di tutto di quanto sonno abbiamo bisogno è anche quello è abbastanza singolare, nel senso c'è chi davvero ha bisogno di dormire 7-9 ore, chi per il suo fisico ne ha, o cervello ne ha bisogno di meno. Però è chiaro che partire con una marcia in più e con un, diciamo, un giusto riposo te la può migliorare veramente tanto la vita. Tante volte ci capita di alzarsi la mattina e essere più stanchi di quando siamo andati a letto e di non riuscire a affrontare la giornata. Una cosa del genere prolungata nel tempo deteriora proprio la nostra qualità della vita. Pensala all'inverso, alzarsi la mattina e essere bello pimpante e dire vai, comincio la giornata, e già la giornata ti comincia in maniera diversa e tutto il resto te lo trascini poi in positivo dopo, quindi fa tanto. E allora sul sonno e sulla qualità del dormire lasciamo i nostri radioascoltatori. Questo è l'ultimo incontro della stagione con Elisa, ma non l'ultimo in senso lato. Elisa, grazie dei tantissimi suggerimenti, delle tantissime informazioni, delle tantissime nuove idee che hai dato a me, che incredulo lo sono, ma lo sono un po' meno dopo aver parlato con te di così tanti argomenti e per così tante settimane, e mi auguro che anche i radioascoltatori siano oggi meno increduli di quando hanno cominciato il viaggio. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e vi auguro una splendida estate, che possiate riposare bene nonostante la calura, e ci risentiamo per la nostra piccola flash estivi. Non vi addormentate per riposare bene sotto il sole, in particolare sotto il sole da un certo parallelo in giù, perché altrimenti vi concereste in modo che neanche il fiore, quello che vendono in piazza, vi aiuterebbe, vi toccherebbe farvi le punture di THC come si faceva Kennedy. Olè! Grande Lisa, bello!